Capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele, e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuiael, Meuiael generò Metusael, e Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice d'ogni sorta di strumenti di rame e di ferro, e la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore.